Poi ci siamo incontrati a Torino, alla Sala d'Armi del Valentino, maggio 71. C'era una degustazione di dolcetti del Piemonte, tutti coperti, non si sapeva di chi era, però la mia capsula era di quelle molto artigianali, e pur essendo coperta avevo riconosciuto il mio vino e mi sono messo alle spalle di Veronelli per sentire cosa ne diceva, per capire qualcosa, perché non mi sono mai considerato un grande giudice. Quando ho sentito che lo magnificava con due suoi collaboratori che aveva lato, chissà di chi è questo vino, e ho fatto un passo avanti e ho detto: dottore, guardi, è il mio quel vino. Come fa? Dalla capsula, vede, sono di quelle capsule manuali da 4 soldi. No? Mi ha stretto la mano e mi ha detto: anzi, fa una bella cosa. Fa una bella cosa. Prendi 5 cartoni di vino quando passi da Bergamo, me li lasci lì oppure me li spedisci. E così ho fatto, e lì è iniziata la nostra amicizia, e infatti quando l'abbiamo commemorato a Verona, come ti ricordi, io partino del 70, perché con quel vino che io e Gino ci siamo conosciuti. Sì.